siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farli scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Che gli animali sono diversi dall'essere umano, non capisci un cazzo, perché scientificamente non è così. Ma scusa, quando c'era il Giurassico, il Triassico, dove cazzo era l'uomo? Ragazzi, non è che sono fissato con gli animali, per carità, però devo dire che un amico, un fratello di una radio danese l'ha fatta grossa, di una radio danese. Tu non sai queste cose, Parenzo, perché non ti informi, non sei curioso. No. Io non sai nulla come al solito. No, è allora, in commissione antimafia oggi. Allora, radio danese, che succede in Danimarca? Un signore ha appoggiato... Questa è l'Italia e lui parla di radio danese. Ma sì, ma guarda che incredibile. Andiamo avanti. Allora, ha ucciso in diretta un coniglio. No. Sì, diretta radiofonica. Uno... Questo a te manca. No, beh, sì, no, ragazzi. Tu però... ci diresti un cinghiale in diretta. No. Ma perché? Cioè, no, non lo so, chiedo. Ha ucciso un coniglio in diretta. Vabbè, che e poi se l'è mangiato a casa, insieme ai figli, insieme alla famiglia. Vabbè, se l'è mangiato una radio danese. Un fratello, che resta comunque un fratello, il fratello presentatore danese che si chiama, non mi ricordo come, Asger Yul. No, vabbè. Il fratello Asger Yul, che però si è rivelato un coglione, perché amico mio, se vuoi fare una dimostrazione, che poi da animalista, sai cosa voleva dimostrare uccidendo questo coniglio? Un bellissimo coniglio, tra l'altro un coniglio scuro, bellissimo. Però voleva denunciare una cosa, che alla gente importa solo quando vengono uccisi gli animali carini. Cioè, no, ma è un po' come se un antirazzista menasse un negro, scusi. Cioè, no, ma io sono un antirazzista, volevo dimostrarlo. Dice, sì. No, sì, ma è uguale. È come se un antirazzista prendesse a sassate uno di colore, no? Dice, ma che cazzo, cioè, fai? Tra l'altro, cioè, no, la radio, sai come lo difende? Dice, non l'abbiamo fatto per far divertire i nostri ascoltatori. No. Centinaia di animali vengono uccisi ogni giorno affinché possano essere mangiati. Allora, doppiamente coglione, dico io. Primo, perché hai ammazzato un coniglio e come minimo devi andare in galera, perché se ammazzi un coniglio in diretta, come dire, senza che ti capiti per caso... O senza che tu lo vada a cacciare, cosa legittima secondo le regole ovviamente, ma lo uccidi durante una diretta radiofonica per dimostrare che ci si emoziona solo per i conigli e non per gli altri animali, sei due volte un coglione. Due volte un coglione, lo dico, caro fratello, te lo devo dire, fratello danese, te lo devo dire. Continua la vergogna dei vitaliziati. Gli amici di Ballarò, che cos'è? Ballarò, sì. Gli amici di Ballarò sono andati a rompere i coglioni al mitologico Boneschi, Luca Boneschi, un avvocato. È un avvocato anche là, ex radicale, messo da Pannella in Parlamento, candidato da Pannella, eletto. Si è dimesso praticamente dopo un giorno, anche lui non ha mai messo piede alla Camera, il mitologico avvocato Boneschi, introvabile. I signori di Ballarò sono andati sotto il suo studio, sentite, questo, anche questo c'ha intorno ai 3.000, 3.000 al mese, poco più di 2.000 pure questo, al mese, poco più di 2.000 al mese da non so quanto tempo, credo dalla metà degli anni 80. Avvocato Boneschi? Buonasera, Alessio Lasta di Ballarò, Rai 3. Saltatela! Addirittura la bestemmia, avvocato, vogliamo solo chiedere... Lasci perdere. Scusi. Mi state rompendo veramente le palle. Scusi, ma vogliamo solo chiedere questa storia del vitalizio. Io non voglio rispondere. A me la cosa che mi fa incazzare primo ha bestemmiato, vabbè, quello, un'imprecazione, una bestemmia in mezzo alla strada davanti alle telecamere. Ma scusa, sono soldi nostri, cioè non sono soldi, lui avrà fatto questo famoso versamento di 60.000 euro, ma sono quattrini nostri, dunque tu vai davanti alle telecamere e rispondi. chiaro? Uno va davanti alle telecamere e risponde, no, dice sì. No, è mio diritto, ho versato e li prendo. Quando cambiano legge non è che mandi a fare in culo quello. Oh, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma questo qua è uno che gli abbiamo dato un sacco di soldi fino adesso, questo Boneschi. Risponda alle telecamere, risponda alla gente che lo chiami, che lo chiama, dai, su. Lei non ha niente da dire su questo tema? No, non ho niente da dire. Penso che siate malati. Perché siete non... malati. Ma chi non ha capito il problema? È solo questo. Voi problema. Non l'avete capito. Sì, lascia andare o no? Ma lei sembra normale, scusi, 2200 euro. Vada al diavolo! Ma... lei e tutti quelli come lei. Guarda che è incredibile, ragazzi. Non è un moderato, però. No, ma è incredibile. Io trovo incredibile questa roba qui. Allora, questo avvocato Luca Boneschi sarà anche bravissimo, quello che ti pare. Non è possibile, cioè, non è possibile che di fronte alle telecamere, siccome lui prende un vitalizio, sicuramente sotto a norma di legge, diciamo così, un vitalizio a norma di legge, dai. Che è una truffa, però, una truffa colossale, perché è stato un giorno in Parlamento, non è mai entrato in Parlamento e prende da anni 2200 euro. Lasciamo perdere i radicali. Noi radicali. Un'altra vergogna detto. Radicale questa roba, no, qui. Altra vergogna. Detto libertà, diritto, democrazia. E vitalizi per tutti. Anche in Bangladesh. E vitalizi per tutti. Anche in Tibet. Ma Tibet vai. Libero con il vitalizio radicale. Ma che vitalizio radicale? Ti candidiamo subito il Dalai Lama. Che yeah. Al Senato prenderà il vitalizio. Prenderà il vitalizio per dire libertà ora, Tibet libero. Ho capito, però col vitalizio. Lo abbiamo pagato noi. Ma no, mandato tu là. Vabbè. Per il diritto. Vabbè, la democrazia è Mabonino. Vabbè. Vogliamo ricordare invece Piero Craveri, per carità, professore, sì. Eccetera, pizzicato. Nipote. Di Benedetto Croce, pizzicato Croce. Da noi ieri. E ricordiamo pure Craveri, perché bisogna sempre ricordare queste cose. Credo che lei non abbia mai messo piede in Parlamento, sbaglio? No, non ho mai messo piede. Non ha mai messo piede in Parlamento e lei ha preso finora praticamente mezzo milione di euro. Come senta, si... Io mi sono sempre occupato di politica, eccetera, e ho preso questa cosa come... E non sono il solo a averla presa. No, assolutamente non è il solo. Non so... E allora? Ma non si vergogna un po' per questi soldi? Qualcuno la chiama Pappone, qualcuno addirittura. Mi vergogni lei a farmi questa domanda. Allora... Abbiamo un ospite già pronto, che sicuramente è più moderato di me su questa roba qua. Siete delle bestie, sì. Allora, l'altra cosa incredibile che sta accadendo è questa roba della commissione antimafia. Probabilmente non frega niente a nessuno, perché frega solamente agli esperti della politica. C'è una commissione antimafia, perché non si sa con quale autorità, sta decidendo se ci sono candidati presentabili o meno. Cioè non bastano le procure e le cose che sono uscite o no. L'antimafia deve dare il timbro finale a questa cosa, con delle cose incredibili che sono successe. Perché che avviene? Che fino adesso sono trapelati quattro nomi. Questi quattro signori non sono stati condannati nemmeno in primo grado. Alcuni sono stati condannati e poi il processo è andato prescritto. È una mezza gogna. Per esempio c'è uno, questo Copertino, no, di Forza Italia, il quale, credo di non sbagliare, è stato condannato in primo grado, poi il processo è andato prescritto. Lui addirittura ha fatto appello contro la prescrizione, perché si dichiara innocente, e che giustamente dice, se fosse confermato quello che dicono, addirittura mi suicido. Cioè sta commissione antimafia sta mettendo alla gogna delle persone. È una cosa pazzesca. Io non ho mai chiesto né colore, né l'appartenenza, né un voto a nessuno. Se viene fuori, se in 30 anni qualcuno che dichiara il contrario, io mi suicidio. Va bene ragazzi, 800 24 00 24, abbiamo con noi Chicco Testa, buonasera, eccoci qua. Buonasera. Come andiamo? Bene, sono d'accordo su quello che stavi dicendo a proposito dei presentabili, perché i casi sono due. O uno a norma di legge si può candidare, o sì. Uno non si può candidare. Certo. Ci sia qualche un'ulteriore commissione, no? Che distingue il mondo tra bravi cristi e cattivi cristi, onestamente mi sembra. No. Già c'è la magistratura, ci sono gli avvisi di garanzia, i rinvii a giudizio, le aperture dell'indagine. No, e poi i partiti che giudicano in base alle loro opportunità, cioè uno può decidere se candidare uno o meno. E poi l'elettore, questa fa parte della polemica politica, uno può dire hai candidato uno stronzo, hai candidato una persona inadatta, quindi certo. Io non ti voto, eccetera, eccetera. Stiamo facendo un ulteriore casino. No, però allora, la cosa incredibile... Come è casino questa storia adesso della che riguarda De Luca e altri, prima se ne occupava il TAR, adesso se ne occupa il Tribunale Civile. No, questo è il solito pastrocchio all'italiana. Però diciamo la verità, se fosse stato un candidato di centrodestra nelle stesse condizioni, praticamente se fosse eletto lunedì, sarebbe oggi dice addirittura che Renzi può superare la Severino, cioè cose incredibili. Se Berlusconi, che oggi De Luca ha detto che Renzi De Luca, candidato in campagna, ha detto che Renzi può tranquillamente andare oltre la Severino. Cioè, come dire che non firmerà l'ordine per farlo decadere, perché è il Presidente del Consiglio che lo firma. Allora, io dico una cosa, se le stesse cose... Ma è chiaro che il Presidente del Consiglio deve rispettare la legge. Questo non no, però scusami, Chico, se le stesse cose le avesse dette e fatte un candidato di centrodestra, avremmo in piazza una mezza rivoluzione, diciamo la verità, dai. Si sarebbe gridato quasi al colpo di Stato, o ma no? Ma guarda, questo non lo so. L'unico candidato di centrodestra che abbiamo avuto nella stessa situazione si chiama Silvio Berlusconi, il quale divideva il Paese per ben altri motivi. Sì, Berlusconi non è mai stato incandidabile e candidato, non è mai stato nella condizione, addirittura De Luca è peggio, perché Berlusconi non è mai stato nella condizione Berlusconi è ineleggibile adesso, mi pare, anche a norma da Severino, mi pare da adesso, ma infatti non si candida, invece quello... No, ma comunque posso essere d'accordo con te, no? Sono d'accordo con te su un fatto, che la sinistra in odio a Berlusconi ha trascurato enormemente questo tema dell'invasività di norme punitive di ogni tipo e genere e di comportamenti discrezionali da parte della... Ma secondo te, De Luca, è assurdo che sia in questa condizione? Cioè tu lo voteresti? Ma secondo me è assurdo, sì, per il tipo cioè, di lo reato. Tu in campagna lo voteresti? Dovendo scegliere tra De Luca e Caldoro, probabilmente voterei De Luca. Cioè te ne fotti del fatto che è condannato per abuso d'ufficio, quello che è, non è ma una cosa... Scusami, ma è condannato, se ricordo bene, per aver dato un incarico a uno che ha chiamato project manager anziché averlo chiamato... Sì, in realtà la magistratura dice anche che è stato condannato per avere favorito la nomina di questo, che è un suo conoscente, un suo amico, un suo fedele. Come fai nomini di quelle persone che non conosci, scusami? No, ma io non sto giudicando, ho capito, però siamo arrivati all'assurdo, capito? Se tu mi dici che l'accusa è che ha nominato un suo conoscente, non voglio difendere De Luca. Beh, no, lo stai difendendo, no. Stai dicendo che secondo stiamo arrivando all'assurdo, siccome ha nominato un suo conoscente, chi deve nominare? Ma gente che non conosce. Ho capito, però le sentenze della magistratura o valgono sempre. Sì, hai ragione, su questo hai ragione. Fermi tutti, no, che c'è il traffico, e poi torniamo perché dobbiamo parlare di Uber, perché Chico Testa è un grande difensore di Uber contro i tassisti, e poi anche del vitalizio. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Vedi che sei stupido veramente, non mi meraviglio di te. Allora, è con noi Chicco Testa, imprenditore, eccetera. Però leggo, Chicco, manager, eccetera, eccetera. È stato anche in Parlamento per 7 anni e credo che tu prendi un vitalizio di poco più di 3.000 euro. O sbaglio? Esatto. 3.033,66 ho letto. Ma da quanto? Sì. Beh, manco lo sai, non ho capito. No, 3.000, sì, va bene. 3.000. Ma da quanto tempo, Chicco? Da quando ho 55 anni. Ah, da 55 dunque ormai da 8 anni. Da 8 anni, perché ne hai 63. Esatto. Che ci fai con questi soldi? Ci faccio varie cose. Preferisco. Allora, cosa ci faccio di questi soldi? Sono fatti miei. Mi rendo conto che è una somma importante. Credo che anche per i vitalizi parlamentari bisognerebbe fare quello che secondo me andrebbe fatto in generale, cioè andare al metodo, come si chiama, contributivo e non retributivo, fare il conto di quanto è stato veramente versato. Io ho versato peraltro contributi miei volontari per altri 3 anni per completare una legislatura. Sì, però ammetterai, Chicco, noi ci conosciamo da tempo, eccetera, e so che tu hai lavorato e di questo vitalizio sostanzialmente potresti fare tranquillamente a meno. Certo. Quello è evidente. Ma perché dovrebbe rinunciare? Io non sto dicendo questo. Io non entrare in discorsi pelosi, perché siccome mi rendo conto che sono soldi importanti, ma io con questi soldi ci faccio delle cose particolari, ma non ho intenzione fai beneficenza. Faccio varie cose, come tutti, come tanti, quindi non è un merito particolare. No, ho capito. Allora, abbiamo capito che fai beneficenza. I vitalizi vanno aboliti, sì, vanno trasformati in proporzione ai contributi che sono per stati me vanno versati. Aboliti, però è evidente che tu capisci bene che essere stati 7 anni in Parlamento e, e prendere, per carità, in cambio di contributi che però sono stati decisi dai politici stessi e sono sicuramente in misura largamente inferiore rispetto a quello di ogni cittadino, dubbio. È un privilegio pazzesco. Per cui questa campagna, se da una parte ha appena riconosciuto, no, può avere degli eccessi, è legittima. Sono d'accordo con te, anche se non mi piace questo metodo di aggredire le persone, per non è che diciamo sono colpevoli di ricevere un vitalizio. Certo, è un'ingiustizia molto grossa. Per cui tu come ti senti? Non te ne, cioè, ti senti un po', cioè, il fatto di incassare questi 3.000 euro, ti senti un po' a disagio o no? No. Sì, assolutamente sì. Ti posso anche dire che oggi ho compilato la mia dichiarazione dei redditi e tra addizionali, eccetera, eccetera, io verserò allo Stato il 56% del totale dei miei redditi. Questo non compensa l'altra cosa, ma dà un quadro della situazione generale in cui ci troviamo. Purtroppo il sistema pensionistico, come tu ben sai perché lo hai visto molte volte, è un sistema pieno di ingiustizie tremende. Sì, però questo in particolare, cioè questa roba qui grida vendetta, perché c'è gente che per un giorno in Parlamento prende 2.000 euro, tu 7 anni per carità hai versato un sacco di soldi e ne prendi 3.000. Segnalo anche i consigli regionali dove succede, sì, anche di certo, peggio. Certo, per cui tu mi dici, se domani lo togliessero, mi togliessero questi 3.000 euro, non farei certamente ricorso alla Corte Costituzionale. Perché chi fa ricorso alla fine è un poveraccio, bisogna dirlo, o no? Sì, poi ci sono, sai, situazioni molto diverse, no? C'è uno studio fatto, mi pare, dall'Istituto Bruno Leoni dall'Istituto Bruno Leoni, che dimostra che i parlamentari, quando hanno smesso di fare i parlamentari, nella maggior parte hanno continuato a lavorare e a guadagnare forse anche di più di prima, no? Poi ci sono anche casi di parlamentari i quali, per fare l'attività parlamentare, hanno smesso qualsiasi altra attività lavorativa, però non giustifica il fatto che vengano, che ricevano cifre superiori ai versamenti che sono. A mio parere non dovrebbero ricevere nulla. Comunque qualcuno mi segnala che anche se uno fa beneficenza, comunque sono soldi sempre del contribuente che circolano. Non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun... Senti, però io non è che li posso dare indietro, capisci? Cioè, no. Però non ti è mai venuto in mente di, è vero che uno da solo non è che può fare una battaglia. A un certo punto, quando uno continua a mettere dei contributi, dici vabbè, però questo sistema. Guarda, ascoltami, io ho segnalato questo problema diverse volte, proponendo varie soluzioni. No, per esempio il fatto di costituire un fondo di solidarietà, metterci una parte di questo vitalizio, eccetera, eccetera, eccetera. No? Credo che i miei ex colleghi figuriamoci, siano, che gliene frega, ecco. non gliene frega niente a nessuno, no, cioè. Però molti giustamente ci vivono con quello, perché ad esempio l'aggressione che è stata fatta nei confronti di Achille Occhetto, ma non c'è nessuna aggressione, perché un uomo per bene che ha fatto che politica c'entra? Tutta la vita, e ovviamente uno dovrebbe dire è un privilegio, scusami, ma che scusami no, non voglio, perché sono sempre discorsi molto complicati, eccetera, eccetera, no? Però sai, qui tutti strillano contro gli altri, no? L'altro giorno io stavo in una trasmissione con quel signore, credo che colui che ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, bravissima persona peraltro, è un dirigente d'azienda. Il fondo dirigenti d'azienda, ho dovuto dare ragione a Landini che lo diceva, è confluito nell'INPS con 3 Vabbè. Miliardi di deficit, sì. No, per cui gli operai pagano le pensioni dei dirigenti. Senti, mi dici in 30 secondi, poi magari ti blocco altri 5 minuti, perché difendi Uber contro i tassisti? 30 secondi, poi riprendiamo. 30 secondi. La difendo intanto perché è un servizio ai cittadini che purtroppo per molto tempo i taxi, soprattutto in alcune città, non hanno dato. Secondo, vedi, quando sono comparse le mail, forse voi non ve lo ricordate perché siete troppo giovani, qualcuno disse bisogna far pagare il bollo, il francobollo sulle mail, perché fanno concorrenza. Cioè, tu dici, i taxi sono come le vecchie lettere, e invece Uber è la mail. Poi aspetta, poi è arrivato l'MP3, no? E c'è stata la serrata delle case discografiche, le quali oggi non si compra più un disco, oggi con Spotify 9 euro al giorno e 9 euro al mese. Però bisogna pure rispettare la legge, amico mio. Cioè, se uno viola la legge, sì, ma come... che cos'è la legge di fronte a una rivoluzione tecnologica? E questo è il punto, la share economy, perché di questo si tratta. Cioè tu dici, di fronte alla rivoluzione tecnologica si può pure andare al limite in alcuni casi e addirittura contro legge, però ti fermo un attimo perché c'è la pubblicità, torniamo dopo. Ciao Cruciani, buona giornata, ti voglio bene, ciao. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it. Vi presenta La Zanzara. Niente, io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. Ma chi ti si piglia, Crociani? Allora adesso torniamo sulla vicenda tassisti, ci stanno telefonando in tantissimi incazzati per le frasi di Chicco Testa, che ha paragonato sostanzialmente i taxi alla vecchia posta e Uber alle mail. Cioè il servizio taxi, sostiene Chicco Testa, imprenditore, ex deputato eccetera eccetera, è un servizio antico, vecchio, e invece adesso c'è la tecnologia che offre servizi più rapidi, efficienti eccetera eccetera. Io ho risposto a Testa: sì, però va benissimo la tecnologia e tutto, però bisogna anche rispettare la legge. Quando la legge viene violata, come è successo nel caso di Uber Pop, cioè ognuno di noi può mettersi a fare il tassista da un momento all'altro, come ci pare, io, qui il tecnico dietro il vetro, Riccardo Poli, un'altra persona qualsiasi, io anche, che poi sono la patente, anche tu potresti metterti a fare il tassista domani mattina, insomma ci sono dei problemi, è evidente che ci sono dei problemi, e infatti è stato bloccato questo servizio in tutta Italia. Però la mia unico paese in Europa è il nostro, no, come unico paese in Europa, in tanti paesi no. Uber Pop è stata bloccata, che dici, non è vero? Sì, però un momento. C'è un altro elemento. La mia teoria è questa, tra l'altro, che Uber non è nemmeno troppo scontento di questo verdetto, perché secondo me dicono: vabbè, ci hanno bocciato Uber Pop, no? Che è, ripeto, il servizio per cui ognuno di noi si può mettere a fare il tassista senza licenza, senza nulla, solo con la patente e con la fedina penale pulita. E però Uber Black, che è il servizio principale, quello dell'NCC eccetera eccetera, resta in vigore. Cioè ci hanno bocciato l'uno e però adesso non rompeteci i coglioni sul resto. Questa potrebbe essere la grande strategia della multinazionale Uber, questo è il punto. Io dico che c'è sempre la responsabilità della politica. La politica deve decidere se Uber va bene o no, deve decidere se allargare le licenze o no, si prendano le responsabilità, affrontino i tassisti con le decisioni, e non lascino tutto nelle mani, come al solito, dei tribunali. Dunque, come al solito, la responsabilità della politica è quella maggiore di questa vicenda, mi pare evidente? Intanto Berlusconi dice che potrebbe allenare. Basta con questa storia, non ce la faccio più, David, non ce la faccio, ti assicuro che non ce la faccio. Cioè, non riesco più a commentare queste cose di Berlusconi, mi sembra veramente qualcosa che appartiene ormai, poi per carità sarò smentito, cioè, appartiene al preistorico. Non so, Berlusconi che dice che potrebbe allenare ai massimi livelli mondiali una squadra di pallone, una cosa di una tristezza, Un signore che è l'unico cittadino al mondo che ha presieduto per tre volte il massimo summit mondiale, il G8, capirà qualcosa, avrà qualcosa su cui poter intervenire con la propria esperienza e con la propria intelligenza, anche per quanto riguarda gli schemi di gioco. Aveva uno ragione. Che ha giocato al calcio, che è stato allenatore di calcio. Aveva ragione Enzo Biaggi, con una punta di tette avrebbe fatto la ballerina, guardi. Quello non lo so. Non lo so, ma certamente saprei allenare al meglio una squadra di calcio portandola ai massimi vertici mondiali. Poi dice una cosa curiosa Berlusconi, che bisogna lasciare l'eredità non ai parenti ma a qualcun altro. Vede cosa bisogna fare? Bisogna avere il coraggio, quando si hanno troppi parenti, di fare un atto di generosità e a darla a qualcuno che non abbia questo diritto di nascita, a qualcuno che se lo meriti per quello che fa nella vita. Beh, molto tutti la pensano così. Quando intorno ci sono i parenti che lì si stanno preparando una guerra pazzesca sull'eredità, forse, dice Berlusconi, meglio darla a qualcuno così non rompono i coglioni. Cioè, non tutto ovviamente, però in America lo fanno spesso. A voglia, ma io lo farei, se so che si scannano, lascio a qualcun altro, magari a un amico, e poi si scannino sul resto, su quello che è legittimo dare. Cosa lasci? Ma non lo so, quel poco che lascerò. Donne arrabbiate. Quel poco che lascerò, anche donne arrabbiate. Pensa quante ne ha lasciate Chicco Testa di donne arrabbiate. Ma non credo. Ma come no? Sì, adesso è felicemente fidanzato e tutto. Però nel passato qualche donna arrabbiata l'avrà lasciata pure lui, o no? Chicco, avrà lasciata pure te qualche donna arrabbiata. Intanto in Italia non si può fare questo, perché tu sai che esiste la legittima, per cui diciamo i figli e la moglie, se c'è, hanno diritto sostanziale sulla tua eredità. Addirittura possono fare revocatorio se tu hai dato soldi a qualche altro. Una bella posizione questa, quella dell'allenatore di calcio mi è piaciuta molto, ma per altri motivi. Invece questa qui è una posizione molto coraggiosa. Sì, è vero, però non la metterà in pratica, poi alla fine Berlusconi non la metterà in pratica. Temo anch'io come al solito. Però allora ci stanno chiamando, caro Chicco, un sacco di tassisti. Perché di più. Sei scorretto, mi scrive uno, inviti uno che ci infama senza contraddittorio. Allora, cari amici tassisti, io sono dalla parte vostra, ve l'ho detto più volte, considero Uber una grandissima forzatura, ma attribuisco la responsabilità no a Uber, che fa il suo mestiere, quello di cercare di inserirsi in un mercato, secondo me, in maniera come dire, piuttosto scorretta, ma queste sono le leggi a sanzionarlo. Ma il problema è della politica, cari amici tassisti. La politica deve risolvere, non lasciare che i tribunali si sostituiscano alle decisioni politiche. Se voi pensate che Uber sia un servizio giusto, lo introducete, cambiate le leggi e non lasciate decidere i tribunali. Adesso, per farti odiare un po' di più dai tassisti, a me è contraddittorio, cari amici tassisti, non me ne frega niente, poi potete intervenire come volete, domani, dopodomani, stasera, in diretta, chiamateci, chiamerò tutti i tassisti del mondo. Non è questo il punto, voglio sentire l'opinione di Chicco Testa, che già ci ha detto due cose: che i tassisti sono sostanzialmente come la vecchia posta, mentre la mail è il servizio, diciamo, tecnologico nuovo. Ma tu perché hai parlato oggi in qualche trasmissione di tassisti che non vengono mai sanzionati? Non ho capito. No, perché qualcuno che stava lì con me era Zaia ha detto nel caso dei tassisti poi noi abbiamo la garanzia del fatto che sono persone, diciamo, legittimate anche dal punto di vista della professionalità a fare questo mestiere. No? Allora io ho fatto un'obiezione, ho detto guardate che quando si usa Uber alla fine bisogna fare un rating, bisogna dire se si è stati bene o non si è stati male, e alla prima denuncia che scatta da parte di un viaggiatore che dice quello lì mi ha disturbato, aveva la macchina sporca, lo cacciano. Uber toglie la licenza. Ma guarda, no? Che succede pure ai tassisti, se uno si comporta, se un tassista commette delle irregolarità, viene marginato, Fatti odiare dai tassisti fino in fondo. Ma scusami, no, ma guarda, io non odio affatto i tassisti, uso regolarmente il taxi, uso rarissimamente Uber, sia chiaro, no? Ma vogliamo parlare dei tassisti che non hanno mai la carta di credito perché se la tengono imboscata da qualche parte? Vogliamo introdurre... Ma questo non è vero, io ogni volta che la chiedo me la danno la carta di credito, Tu sei fortunato, forse vivi a Milano. Ascolta una cosa, ti faccio una proposta. I tassisti stanno facendo grandissimi passi in avanti, finalmente ci sono delle applicazioni con cui chiamarli, eccetera, eccetera. Allora? Vogliamo introdurre, perché non introduciamo anche per loro il rating, no? Alla fine della corsa viaggio, voto la qualità della macchina, l'aria condizionata, la disponibilità della carta di credito, si può fare anche adesso. Ma secondo te perché Uber non viola la legge? Quello che voglio sapere. Uber sto dicendo un'altra cosa. Cioè, secondo te è normale, come Uber Pop, è normale che uno si metta a fare il tassista da un giorno all'altro senza... Sto dicendo un'altra cosa, che le leggi che noi abbiamo, sicuramente Uber è borderline, come si dice, rispetto alle leggi. Però secondo te per cambiare le cose bisogna un po' forzare le leggi, bisogna un po' violarle. Io dico che le leggi che noi abbiamo di fronte alle nostre innovazioni, alle innovazioni tecnologiche, passano in secondo piano. Non sono più buone, capisci? Non valgono più, non servono più. Ma scusa, ma le licenze... I librai sono furiosi giustamente perché la gente non compra più i libri in libreria, li compra tramite Amazon. concessione pubblica nel campo dei libri, scusami, è diversa la cosa. Qui ci sono le licenze pagate, le concessioni pubbliche, tutto un sistema. Ma che... capisci che è un servizio come Uber Pop, è borderline tra... No, è contro la legge, non è borderline. Servizio, no, sì, lo so, è contro l'attuale legge, è chiaro. Ho capito. No? Ma quando lo faranno diventare un autostop, anche l'autostop è contro la legge, lo sai che l'autostop è contro la legge? Sì, d'accordo, però che c'entra, non confondiamo le cose. No, non è che non confondo, adesso c'è l'altro servizio, BlaBlaCar, mi pare che mio figlio usa continuamente. Vabbè, ma quello è diverso però, sono servizi tra più città. Ma, è ma tu capisci che le distinzioni tra una cosa e l'altra sono difficilissime. Se uno fa sostanzialmente servizio di taxi in una città, si deve adeguare alle regole attuali. Se non ti adegui alle regole attuali... Ti faccio notare, peraltro, che Uber è diffuso in tutto il mondo. Beh, infatti no? In tutto il mondo ci sono dei casini pazzeschi. Ci sono dei casini, ma... ricorsi, tribunali... Cosa va avanti, eccetera, eccetera, quindi... No, no, non si affronta con le sentenze dei tribunali. Cioè tu dici i tassisti no, questo hai ragione tu, no, ed ma è la politica. Capisco la posizione dei tassisti. No, la contrasti però, la contrasti. Ma allora spiegami un'altra cosa, scusami, così li faccio incazzare definitivamente. Perché dimmi. Le licenze rilasciate gratuitamente dai comuni in base a concorsi, gare, eccetera, pagate, il giorno però. Dopo valgono 150.000 euro? Beh, a parte che non è più così da un po' di tempo. È il loro TFR sostanzialmente. Non è più così, ormai il nero su questa cosa qua. No, l'investimento ce l'ha uno quando compra la licenza, e questo sono d'accordo con te, è il loro investimento. Deve essere ripagato questo investimento in qualche modo. Ma il Comune di Roma qualche anno fa ha rilasciato alcune centinaia di licenze gratuitamente, come all'origine di tutto ci sono licenze rilasciate gratuitamente. Vabbè, secondo te una corporazione Comune potrebbe rilasciare delle licenze facendo delle gare. Secondo te è una corporazione insopportabile la Didassisti? No, non è una corporazione insopportabile, sono persone che fanno un servizio utilissimo. Però? Per noi tutti, no? Dico che però cercare di fermare la diga con il dito nel buco della cosa è una cosa che non funzionerà, che quindi bisognerà alla fine vincerà Uber, dici tu. Non so come, ma capisci? No, ti voglio anche dire che questa questione della share economy, cioè dell'economia condivisa in cui io metto a disposizione un bene che io ho, no? In cambio di una prestazione, è destinato a diffondersi in molti altri campi. Tu dici che la modernità travolgerà il servizio taxi come è concepito adesso, vabbè. Internet sta distruggendo innumerevoli professioni e facendone nascere altre. Cioè devono pensare a fare un'altra prova, alcuni tassisti dovranno pensare a... No, i tassisti secondo me... hanno un grande vantaggio, che è quello di avere un brand molto forte, sono i taxi. Se continuano sulla strada di innovazione che hanno preso, di facilità, di offerta di servizio, di prezzi ragionevoli, di qualità del servizio, non hanno nulla da temere. Va bene, ciao. Io continuo ad andare in taxi tranquillamente. Se no temenano magari. Ciao. Buonasera, Luci Romani alla Zanzara. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta La Zanzara. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrate. Allora, più tardi apriremo un capitolo sul giallo Sgarbi, Il giallo Vittorio Sgarbi. Secondo alcune notizie sarebbe stato aggredito a Napoli da un giornalista o presunto tale e ferito all'orecchio addirittura. Noi però, caro Parenzo, abbiamo informazioni di prima mano. Abbiamo le prove. Ovviamente si apre a questo punto un giallo clamoroso, quasi abbiamo condotto indagini, quasi da quarto grado, dovremmo chiamare il signor Nuzzi a indagare, bravo, oppure il professore Taormina. Perché ci sono due versioni. Non è la stessa cosa, oppure il professor Taormina. No, mica volevo paragonare il professor Taormina col professor Nuzzi, per carità. Ecco appunto. Però abbiamo due versioni completamente contrastanti. Però abbiamo mandato i RIS di Parma a fare delle indagini anche lì su. A Napoli. Più tardi, tutto questo più tardi. Apprendo che a Treviso un ristoratore ha allontanato il prefetto, che si era portato la sua cagnolina a tavola. Ora, giustamente, questo ristoratore non voleva cani in mezzo ai coglioni. Ha detto: non siamo in un canile, porti fuori la sua cagnolina. Al prefetto. Al prefetto. molti tassisti incazzati. Io sono dalla parte dei tassisti, l'ho sempre dimostrato. Sono arrabbiati perché un po' con noi, perché abbiamo ospitato Chico Testa, ma di questo me ne fotto, perché io sono tranquillo dalle mie posizioni sulla vicenda Uber, tant'è che non mi possono vedere a Uber, dunque no, sono tranquillissimo. E poi perché sono incazzati con quello che ha detto Testa, perché ha paragonato il servizio taxi alla vecchia posta, alle lettere, e invece c'è la tecnologia con Uber che alla fine trionferà. Andiamo subito a Torino, Massimo, vai. Pronto? Massimo, dimmi. Eccomi qua, ciao, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Grazie per avermi richiamato. Una cosa veloce, cioè scusate, due cose. Fai il tassista. Uno, tu? Fai il tassista. Faccio tassista, sì, sì, qui a Torino. Allora, la prima cosa, il signor Testa forse non sa che queste licenze, che è vero che vengono comprate e vendute, ma lo Stato su una transazione, senza fare nulla, ci guadagna 35.000 euro su ogni transazione. Sì, quindi magari quelle regolari, naturalmente, bravissimo, cioè quelle registrate, certo. Di tasse, senza fare nulla, serve magari per pagare il vitalizio a tutti i signori. Poi c'è, cioè, anche la il suo, seconda... dice anche Testa riceve il vitalizio grazie in parte alle tasse che pagano i tassisti. Perfetto. Dunque il vitalizio di Testa, 3.000 euro, dice questo tassista, lo paghiamo anche noi con le nostre tasse. Con le licenze che noi vendiamo. In generale con le tasse, poi? Benissimo. Seconda cosa, non capisco come faccia il signor Testa a dire che Uber va tutto quanto bene con Uber, dopo che lui è un ex rappresentante dello Stato e Uber sappiamo benissimo che non paga le tasse in Italia. Sì, quindi, sì, non paga le tasse in Italia. Adesso qui non è che ci possiamo mettere a ricapitolare tutte le cose. Che ci sono da dire, c'è anche questa, sicuramente. Come tante altre aziende. Sì, però, amico mio, se tu fai un servizio. Ma io lo dicevo anche della Fiat, però, Io, cioè, attento, io la critica la facevo anche a altre grandi multinazionali, ad esempio, no? O al signor Marchionne, che è un manager italiano e paga le tasse in Svizzera. Vabbè, Massimo, cioè, grazie. Un momento. Emanuela da Milano, vai, Emanuela. Altrimenti qui. Emanuela? Sì, dimmi. Pronto? Dimmi, cara, dimmi. Ascolta, io invece volevo anch'io rispondere chiaramente a Testa, a parte che, vabbè, concordo su alcune cose purtroppo che ha detto, sono verissime, tipo il fatto che molti tassisti si rifiutano di usare la carta di credito. Anche tu sei tassista a Milano? Sì, sono tassista a Milano. Però quello che voglio dire... Sì, però devo dire, si rifiutano. Quando uno si rifiuta e ce l'ha, secondo me commette quasi un'infrazione da denuncia. Sono d'accordo. E ce l'ha. È chiaro che se poi uno non ce l'ha, si dovrebbe dotare di carta di credito, punto e basta. 5.400 taxi... Posso garantire che la totalità quasi ha la carta di credito. Ma io infatti non ho mai avuto problemi a Milano. È evidente che se vai a Lecco magari non trovi quello senza carta di credito. Ma anche qua, anche qui qualcuno si rifiuta di prenderla. Ma non è quello il problema, dai, non è il problema la carta di credito, dai, su, non diciamo cazzate. Le applicazioni le abbiamo anche noi, quindi come ha detto anche Testa, effettivamente il servizio si è in ogni caso modernizzato anche per quanto riguarda i taxi. Poi tu dici giustamente che deve essere la politica a intervenire. Ma certo. È vero. Hai ragione. Allora, però, cioè, se la politica decide che Uber Black va bene, perché Uber Pop è chiaramente una cosa illegale, Uber Black, che è il servizio di NCC, cioè sostanzialmente uguale al servizio di NCC, ma invece fa il servizio di taxi, se la politica decide che va bene, deve avere il coraggio di cambiare la legge, uno scontro duro con i tassisti. Ma deve anche rimborsare noi, perché io per avere questa licenza 15 anni fa mi sono dovuto ipotecare la casa e non l'ho chiesto io, mi è stato praticamente imposto perché io ero disoccupata. Se volevo lavorare dovevo comprare la licenza perché non c'era un altro modo per averla. Infatti, quindi, ma su questo io ti do pienamente ragione. Allora io dico, prima di parlare, loro ci rimborsino i soldi che noi abbiamo speso, poi ci mettono nelle stesse condizioni degli altri, perché appunto se il Uber Black vuol fare il tassista, a me tassista deve essere data la possibilità di fare il noleggiatore. Cioè a questo punto allora io devo avere la possibilità di lavorare quando voglio, come voglio, devo avere la possibilità di andare nelle aziende a offrire i miei servizi per andare dove vogliono ai prezzi che io decido, mentre invece noi siamo bloccati dal comune. Il comune mi dice a che ora io devo uscire, no, a che ora devo rientrare, quante ore cioè, posso se fare, gli altri, se gli altri... Manuela, scusami che sei incazzata, giustamente, però io ti do ragione e dico in più che se viene introdotto Uber, allora si cambia anche il servizio, uno può fare le tariffe che vuole, mettere, che ne so, se il servizio è troppo, no, se ci sono troppe domande può aumentare la tariffa come succede per Uber, eccetera eccetera. Grazie, esattamente, grazie, esattamente. Grazie Fortunato da Bergamo, 800 24 00 24. Fortunato, vai. Buonasera. Dimmi. Sono un cacciatore, sono orgoglioso di esserlo, sì, voglio rispetto, e ieri sera adesso quest'ora ho sentito le dichiarazioni del signor Rizzi, sì, in merito a quella vicenda. Vabbè, Rizzi vorrebbe che i cacciatori morti dal primo all'ultimo, cioè vorrebbe che morissero domani mattina. Questa è la posizione di un signore tutti che è il sedicente segretario di un sedicente partito. Vorrebbe che i cacciatori morissero domani mattina tutti quanti, perché li considera gli assassini. Mi pare evidente, no? Denunciatelo, andate in tribunale, che vi devo dire? Appunto. Noi sicuramente agiremo di conseguenza. Sì, però non intasate i tribunali per queste minchiate. Rizzi, lo so, però a queste persone bisogna pur mettere fine, e non diamo molto spazio a queste persone, oscuriamole, non penso che... Che forse fanno uno spettacolo. No, oscuriamole, amico mio. Noi siamo qui per discutere, eccetera, eccetera. Siccome ci sono dei pazzi animalisti che ci rompono i coglioni ogni giorno con le loro minchiate, anche di fronte alla morte di un signore che spara un cinghiale e viene invece mangiato vivo da questo cinghiale. Adesso ho un'altra notizia che mi è arrivata. Ormai mi arrivano tutte notizie di animalisti, notizie continue. Per esempio, da Trieste, no? Ferito da un cinghiale inferocito. Anche a Trieste? Sì, a Trieste. È stato aggredito da un cinghiale che lo ha ferito seriamente con le zanne, morsi e colpi tremendi sferrati dal basso verso l'alto mentre era a terra nel suo orto. Scusa un momento, ma chi ci fa il cinghiale a Trieste? Beh, amico mio, ma è pieno di cinghiali. Ma questo è il punto. Ma mi diceva Andro, Andro che è pieno di cinghiali nei dintorni di Trieste. Ma tu non sai un cazzo. È pieno di cinghiali intorno a Trieste. Scusami. No, non so che è pieno di cinghiali. È pieno di cinghiali, assolutamente. Danilo, Milano, vai, Danilo. Pronto? Dimmi. Buongiorno a tutti. Ciao. Senti, io sono un Uber driver pop. Eccolo qua. Il mio lavoro. Che fai di scusa, che fai? Perché ancora non t'hanno cassato, già non t'hanno cancellato. No, c'è ancora 15 giorni di tempo. Ah, è vero, per 15 giorni ancora puoi campare. 15 giorni, cioè, posso campare con il terrore che magari arriva un vigile dentro e mi sequestra la macchina. Ma io non ho capito, tu che fai di mestiere? Ah, io vivacchio, cioè nel senso, no, grazie a Uber. Quando è iniziato a fare il. Un mese fa. Un mese fa, e prima che facevi? Ma vendo piastrelle, perché Marrangio. E quanti soldi fai con Uber? Riesco a fare questo mese lavorando 7 giorni su 7. 2100 euro. Ah, tu dici tra 15 giorni non potrò più guadagnare 2100 euro? Sì, chiaramente. Sì, cioè, questa roba qui ti ha devastato in pratica. Scusa, non ho capito. No, dico, questa roba qui ti devasta da un certo punto di vista, o no? Insomma, è un po' seccante. Cosa devo farci? Però volevo dirti questo che è importante. Sì. Uber ha cambiato Milano, tu dici? Certo, ha cambiato Milano. Ma quale tipo di servizio? Il vostro oppure l'altro? Il vostro o l'altro? Questa è la chiamata di un cliente, però è giusto. No, rispondi. No, non posso perché devo solo schiacciare e dire che arriverò. Dove t'ha chiamato? Non lo so, l'ho eliminato. Ma come l'ho eliminato? Magari però se c'è casino magari annullano la corsa. Quindi è importante. Ma come avviene la cosa? Cioè, tu che cosa hai in mano? Una specie di avviso? Che cosa hai in mano? Guarda, c'è un telefonino in cui mi avvisano che un cliente mi ha visto nel circondario e mi prenota. Io schiaccio che accetto la chiamata e vado verso e vai là. Che macchina hai tu? È una macchina. No, non voglio dire altro perché Danilo, abbi pazienza, che tipo di macchina? Non sto chiedendo la targa. Una Fiat multipla, via. Una Fiat multipla, ma tutto di quanti anni è questa Fiat? 2007, dunque 8 anni di macchina, tutto a posto, tutto regolare, naturalmente. No, la cosa che ti chiedo è questa. Qualche ragione i tassisti ce l'hanno, cioè tu sostanzialmente non fai il tassista, non c'è la licenza. Per carità, guadagni 2100 euro. Questi qua però hanno una licenza, devono fare degli orari precisi, hanno pagato questa licenza, cioè lo puoi capire che questi sono incazzati o no? Sì, io posso anche capire che però c'è un mercato di ragazzi che non vogliono spendere 150 euro al giorno di taxi, hai capito? No, 150 euro al giorno, sì, che cazzo li spende, dai, su. Della gente. Sì, perché se prendi 4 volte il taxi in un giorno. Ho capito, ma 4 volte taxi al giorno sei un imbecille se pigli 4 volte il taxi al giorno, cioè se lo possono permettere sono quelli, ma non perché non bisogna prendere il taxi, ma lo prendono quelli che lavorano. Ah, sì, quelli che lavorano nelle aziende che rimborsano, amico mio, altrimenti chi lo piglia per 4 volte? C'è il car sharing a Milano, nelle grandi città. Un professionista che magari uno mi ha detto che spende 3.000 euro al mese di tasse. Ma sì, perché poi si fa, non capito, scalano sulle tasse, si fanno rimborsare. Sì, cioè, però intanto sono sempre soldi che escono fuori dalle tasse. Vabbè, io voglio capire se capisci i tassisti incazzati oppure no. Cioè, secondo te è più importante il consumatore? Poco, perché sento delle storie non piacevoli sui tassisti. Ma tu hai paura dei tassisti? Hai paura? Qualsiasi sanzioni. Io se sbaglio una volta mi cancellano. Ma chiaro? Non è vero, che ragazzi, anche questa cosa qui che non ci sono sanzioni, non è vero. Se un tassista picchia qualcuno, se un tassista fa delle scorrettezze, c'è il penale. Ma ho capito, ma anche se male, ma se rispondi capone, male, ma che vuol dire se rispondi Lucio, male? Ma caro... No, Lucio era mio padre. Caffone, scusa, caro. Non capisco perché mi hai chiamato Lucio, mi hai fatto un po' emozionare. Ho scuso, sbagliato. No, però scusami, no, Danilo, abbi pazienza. Il problema è molto semplice. Se un tassista risponde male, questo può succedere dappertutto, che un tassista risponde male. Sì, dai, su, non diciamo cazzate. Tassista Cafone. Io sinceramente in tanti anni a Milano tassisti Cafoni ne ho conosciuti uno su 100, che è la normalità. Non diciamo minchiate, dai, su questa cosa qui. Qua, i tassisti Cafoni. Il problema non saranno mica i tassisti. Sono contento di Uber perché si risparmia. Sì, ma è chiaro, gli studenti così con 5 euro fanno una tratta. Ragazzi, tassisti, gli studenti pigliano Enjoy o pigliano l'altro, no, come si chiama? Car2Go. Gli studenti della Bocconi e della Cattolica prendono Uber. Ma Uber quello collettivo. E lo prendono anche i commercialisti e gli avvocati, e lo prendono anche le tre ragazzine. Ho capito, ragazzi, ma a me va benissimo tutto, però bisogna rispettare la legge. Uber Pop è chiaramente una cosa contro la legge. Tu fai lo stesso mestiere di un tassista, ma non hai pagato come un tassista. E questi qua giustamente sono incazzati, questo è il punto. Bisogna capirla questa cosa qua, Danilo. E non devi essere tu a risolvere, perché mi dispiace che tu non incasserai più 2100 euro a partire da 15 giorni. Però è come se uno volesse fare, che ne so, l'idraulico e non c'ha un cazzo in mano. Cioè, questo è il punto, capito? Non ha ma poi un minimo di... Io sono contro gli ordini professionali, sono contro qualsiasi corporazione. Però un minimo di base, cioè se uno... Non, cioè, Parenzo non si può mettere a fare il tassista perché c'è un chi te l'ha detto? Ma dai, no, lui su, giustamente ragazzi, no, ma io capisco perfettamente la rabbia dei tassisti, perché dicono: noi abbiamo investito, abbiamo una macchinetta, la abbiamo politica spese deve mazzesche, risolvere questa roba, abbiamo qui tariffe fisse, cioè hai ragione, questi sono i problemi che io conosco ogni giorno. Sai quante volte ho preso il taxi io sia a Milano che a Roma? Sì, ma è la politica che deve risolvere sono tutto. Sono amici che conosco tutti, uno per... certo che è la politica. Ma in assenza della politica, questi qui che dovevano, questo scusa, signore tu che ci ha questi soldi qui, che dovrebbe fare in Danilo, questi della soldi qui li dichiari tutti, questi soldi che guadagni 2100 per adesso mi sono arrivati, perché arrivano tutti dall'estero e sono tutti nel conto corrente, arrivano poi dopo, quando sarà il momento della dichiarazione parlerò col commercialista e vedrò che cosa fare. Ah, cioè in teoria potresti pure dichiarare, non dichiararli? No, non li posso non dichiarare, rimborso spese, perché sono soldi che arrivano. Ah, e dunque? Come che intendi fare? Vabbè. E che li dichiarerò? Cosa devo fare? E che ne so? Lo so, non lo sai tu. Vabbè, Danilo, ciao, 30 secondi, fermiamo. I love you, I like a virgin. La Zanzara. Allora, grande ritorno alla Zanzara dopo un sacco di tempo, ma ci voleva, perché c'è stata la posizione della Chiesa sui matrimoni gay. Carlo Giovanardi, l'ultimo dei giapponesi, è con noi. Buonasera, buonasera. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Si senti, senti un po', Carlo, l'ultimo dei giapponesi o no? No, mi sento, per la verità, il rovescio. Mi sento in sintonia col 70% degli italiani. Ho visto i sondaggi stamattina della stampa. Cioè, scusami, secondo te il 70% degli italiani la pensano esattamente come me? Cioè, il 70% degli italiani sono contro il matrimonio gay? Sono contro l'adozione dei bambini e l'utrino affitto. No, era vero, questo che c'entra adesso? È l'oggetto della discussione di queste settimane, di quel progetto di cui stiamo sì, parlando. Sì, d'accordo, però adesso è intervenuta una cosa nuova, cioè questa decisione del popolo, della gente in Irlanda. Secondo te è sbagliato fare il referendum su queste cose? Ma guarda, i referendum ne hanno fatti quasi 30 negli Stati Uniti, compreso la California, hanno sempre vinto il contrario al matrimonio gay. In Irlanda, ho capito, avranno poi sempre vinto il contrario. Che succede che anche quando vincono i contrari, come in California e negli altri stati americani, arrivano i giudici con le loro sentenze, ma vedremo la Corte degli Stati Uniti, la Corte Suprema. No, ma ho capito, in Irlanda tu avresti votato chiaramente contro, no? Certo. Io, ripeto, considero un ritorno alle barbarie, cioè a centinaia di anni fa, la possibilità di vendere i bambini. No, ma questo però è un'altra cosa. Andarsi ad acquistare da donne disperate, povere, portargli via il figlio a pagamento. Lo considero un ritorno a tempi che... No, perché lui sostiene Giovanardi, che nel disegno di legge presentato dalla signora Cirinà, quella di cui si discuterà forse in Parlamento a giugno, a settembre, ci sia dentro sostanzialmente la legalizzazione dell'utero in affitto. Ma è evidente, noi abbiamo un collega. No, ma d'accordo, questo lo posso, un collega che è lo giudice. Un collega senatore che è tornato dagli Stati Uniti con un bambino che apertamente, pubblicamente sì, ha dichiarato di aver avuto da una signora voluto in affitto, bellissimo. E con l'adozione speciale che è contenuta in questa legge, diventerà... l'altro signore diventerebbe il padre di questo bambino, avrebbe due padri, mentre naturalmente la madre sparisce. Vabbè, la madre quindi è stata pagata, la madre è stata pagata. Viene legata la possibilità di un suo diritto fondamentale di avere un padre e una madre. Ho capito, però negli Stati Uniti è possibile fare questa cosa. Tu dici attraverso... Ma negli Stati Uniti nel 1859 tutti gli stati del sud, religiosissimi con la Bibbia in mano, presero la guerra di secessione per mantenere la schiavitù. E allora? Contro Lincoln che la voleva abrogare. Cioè tu dici che negli Stati Uniti ne succedono di tutti i colori, tu dici? Ma dico che nel mondo sono stati dei momenti in cui... Cioè gli Stati Uniti sono più barbari di noi, sono più barbari di noi. Il secolo scorso fu il secolo del comunismo, del nazismo, del fascismo. È un secolo in cui milioni di persone in civilissimi stati come la Germania seguirono Hitler. E dunque, non è che mi faccio impressionare rispetto a le mode. Non mi potrai dire che è come tornare al nazismo, i matrimoni gay, l'utero in affitto. C'è una barbarie come il nazismo. Una barbarie come il nazismo. L'utero in affitto è una barbarie come il nazismo. No, l'utero in affitto è un ritorno alla schiavitù. E dunque si può paragonare a Hitler. Si ritorna a quando il frutto di una donna era una cosa. E il padrone poteva disporne come... Ma non esageriamo, ma non è così, dai Carlo, non è così. Non è così? Ma no! Perché secondo voi una donna vede il figlio che è una follia? No, la donna ha bisogno, ha bisogno. Una donna ovarica e quindi danneggia ha bisogno, certamente. Per vendere gli ovociti se non ha bisogno? Certo, assolutamente per questo, anche perché ha bisogno, anzi soprattutto, forse unicamente perché ha bisogno. Perfetto, allora uno può ma va benissimo, camperanno magari intere generazioni con quei soldi, camperanno con quei soldi, fermi perché tutti. Perché in Italia la gente vieta di vendere la compravendita degli organi? Fermi tutti, abbiamo la pubblicità, devi alzare un po' la voce, caro, ti sento un po' giù, non so perché, il referendum in Irlanda forse ti ha abbattuto un po', sento la voce un po' mogia. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. La Zanzara. Dovete sposarvi in un altro posto, ragazzi. Voi parlate sempre di questi matrimoni gay, voi due, ma siete una vecchia coppia, due gay che si continuano a insultare uno con l'altro. Sentire così per a futura memoria Luca Boneschi che per un giorno alla Camera incassa poco più di 2000 euro al mese di vitalizio, perché vorrei farvi ascoltare il modo in cui si rivolge a un cronista che si avvicina sotto il suo studio, forse sotto la sua abitazione a Milano. Questo signore Luca Boneschi è un avvocato che ha anche dei trascorsi con l'estrema sinistra, ma questo non c'entra. Boneschi si rivolge in questo modo al cronista di Ballarò che cerca di fargli delle semplicissime domande sul vitalizio, come si sente a incassare per non essere mai l'asta. Entrato alla Camera poco più di 2000 euro da non so quanti anni. Domande normali che uno deve affrontare se prende i soldi nostri. Avvocato Boneschi? Buonasera, Alessio Lasta di Ballarò, Rai 3. Possiamo. Cantatela! Addirittura la bestemmia, avvocato, vogliamo solo chiedere. Lasci perdere. Scusi. Mi state rompendo veramente le palle. Scusi, ma vogliamo solo chiedere questa storia del vitalizio. Io non voglio rispondere. Lei non ha niente da dire su questo tema. No, non ho niente da dire. Penso che siate in malattia. Perché siete in malattia. Ma chi non ha capito il problema? È solo questo. Voi non avete capito. Sì, lascia andare o no! Ma lei sembra normale, scusi, 2200 euro. Vada al diavolo! Ma... Lei e tutti quelli come lei. Questo Boneschi che bestemmia pure, ma questo vabbè fa parte forse della tradizione radicale. No, della tradizione radicale. No, perché? È un po' sì, dai. Si è sempre bestemmiato un po' tra i radicali, dai, vai, vai. Oh, è così, ragazzi. Abbiamo detto solo che voi. Non Pannella Dio. No, però insomma voi, no? Il Vaticano dirigenti, per anni dirigenti radicali hanno sempre bestemmiato. Però per anni il Vaticano ha sequestrato Dio. Giovanardi, lei ne sa qualcosa di bestemmiatori tra i radicali o no? Tra i radicali no. girando per il bar, le piazze, ne so qualcosa. Sì, no, ma tra i radicali c'è una radicali in particolare, no, non c'è una vecchia tradizione, vabbè, lasciamo perdere, dai. Allora, io voglio chiedere una cosa a Giovanardi, però sul non andiamo sull'utero in affitto, su queste robe qua. Vorrei rimanere. Ma stiamo parlando di quello? No, stiamo parlando della situazione che si è venuta a creare dopo il referendum in Irlanda. Allora, il segretario di Stato Vaticano, Parolin, ha detto che cos'è che ha detto, una tragedia dell'umanità, che ha detto una rovina per l'umanità. Lei è d'accordo? No, ha usato non una rovina per l'umanità. Come no? Ha usato non una rovina. Una sconfitta per l'umanità. Una sconfitta. Io sono assolutamente d'accordo con lui. Cioè lei è dalla parte di Parolin, dalla parte che ha detto una sconfitta per l'umanità. Tanto cioè, della Costituzione laica repubblicana. Io difendo la Costituzione in vigore, innanzitutto. Ma che non prevede non prevede l'impossibilità di un matrimonio tra coso, tra... Che prevede l'impossibilità, no, ribadita più volte dalla Corte Costituzionale in tutte le sentenze, l'ultima di 6 mesi fa. Per cui se si vuole arrivare al matrimonio in Italia, ed è legittimo, si può fare. Bisogna cambiare la Costituzione. È la più bella del mondo, ci dicono sempre, no, non è così, quando non è... citano le parti che fanno comoda loro. Non è vero che non è prevista. La più bella del mondo impedisce anche che il matrimonio, sia la famiglia sia una società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna. No, non lo dice questo in realtà. No. Lo dice la Corte Costituzionale, l'ho detto più volte, no. E ci ha invitato, cosa che potremmo infatti, fare. Infatti in Irlanda hanno cambiato la Costituzione per questo. In Irlanda hanno fatto un referendum. Non avevano una Costituzione. O se ce l'avevano con un referendum, infatti io l'idea del referendum, poiché se si cambia la Costituzione e poi si fa un referendum popolare, io l'affronto tranquillamente. Occhio. Però su che cosa? Non sulle cose che ci accomunano. Finisce come in Parlamento potremmo chiudere in mezz'ora la legge, riconoscendo alle formazioni sociali, come ci ha detto l'accordo costituzionale, uomo uomo, donna donna, in tutti i meccanismi che si vogliono avere di convivenza, tutti i diritti. È quello all'assistenza, è quello nella parte disponibile alla successione. Sì, però tra uomo e donna, tra uomo e uomo, non è lo stesso rapporto che c'è tra un uomo, che ne so, un animale. Non può essere. C'è qualcosa, però tra uomo e uomo, se qualcuno mi dimostra in natura come due uomini riescono a generare un bambino, gli do ragione. No, ma questo no, non è possibile. Ma non mi può equiparare. No, ci sono non è possibile, bambini. È chiaro che il matrimonio cioè, serve tra lei, soltanto secondo lei il rapporto ad andarsi tra... a comprare i bambini. Ah, il matrimonio serve solo andarsi a comprare i bambini, ma non è vero. Io ma non è sono così. Contrario a quello che hanno fatto loro, cioè che un bambino nasca con 5 genitori, vabbè, 5. Vabbè, ma quelle, quelle sono casi estremi. Sono quello su. Che dà la vocita, quelle sono casi quello estremi. Che dà lo sperma maschile. Lei dice, che fa la gestazione. Lei dice che il matrimonio gay serve solo andarsi a prendere i bambini, andarsi a comprare allora, i bambini. Allora, abbiamo avuto 2 mesi di udienze conoscitive. No, ma lasciamo perdere le udienze conoscitive. No, bisogna mettere a fuoco quale. No, ma problema. Lei, per esempio, vogliono le pensioni, è giusta la reversibilità delle pensioni perché o no? Vogliono le adozioni e vogliono arrivare attraverso il meccanismo del matrimonio ad adottare o ad assemblare i bambini. Si può essere contrari a questa pratica? Si può pensare che convenzioni New York il bambino abbia il diritto. Lei vede i matrimoni gay solamente come il cavallo di Troia per arrivare all'adozione, ma non un cavallo di Troia, scusi, di cosa stiamo parlando? Se no avremmo già chiuso il Parlamento. Però scusi un attimo, allora quello che ha pensato la Cirinna c'è scritto che si devono chiamare quelli della coppia. È giusto dare le pensioni marito, o no? No, scusi, si devono chiamare marito, moglie, vedovo, vedova, figliare, il cognome del coniuge. C'è scritto che fastidio le dà? Ma possono chiamarsi anche Bubù? Che fastidio le dà se si chiamano stare i bambini? Scusi un attimo, secondo lei la reversibilità delle pensioni è giusto o no? La delle pensioni comporta intanto un aggravio. Dunque è sbagliato, mi dica sì o no. Comporterà inevitabilmente l'abbandono anche dell'idea della reversibilità che era nata quando la donna non lavorava. Ma secondo lei è giusto o no? No, non vedo il motivo per cui due persone che fanno un contratto, un medico, non so, un impiegato, al di là del concetto che era della famiglia, dei figli e quindi della ma donna non che non lavorava cosa, prevalentemente, Giovanardi, non è la se uno dei cosa. Due muore, l'altro per tutta la vita dovrebbe pigliare la reversibilità sulla base di quale concetto. E invece, ma lei si immagina che cosa accadrà in Italia, che accadrà? Come avviene sempre nelle leggi italiane, cioè, che quando basta un atto semplicemente notarile per acquisire il diritto ad avere la reversibilità? Cioè, che succede? Con un vecchio si mette con una... Che succede? Scusi, lo stesso che è successo per la... Perché il vecchio? Non si mica viene a essere vecchio. Basta due persone di 30 anni che fanno un accordo di questo tipo. Finto, dice lei. Avrà, finto, nel caso di decesso dell'altro, la reversibilità. Vabbè, ma quello sono un contratto. E chi la paga? Cioè dice è troppo cara per la comunità. Paga, lei vede sempre la truffa dappertutto. Ma scusi, lei vede sempre le famiglie che stentano, quelle che ma tirano dai, la caretta. Lei vede la truffa. No, ma scusami un momento. Ma di che parliamo? Cioè vengono prima quelli dei gay, lei dice. Vengono prima quelle famiglie là dei gay. Beh, mi sembra che la famiglia, quella della Costituzione, la famiglia che dà una prospettiva, cioè le famiglie dei poveretti, paese, dei poveri vengono prima, la generosità di mettere al mondo dei figli debba avere certamente da parte del legislatore un occhio di riguardo, cioè prima la famiglia e poi i gay. Questa ma è la questa la pensa anche l'altro giorno quando sono espressi i però due scusi io stilisti. Voglio capire da lei, scusi, la pensano esattamente lo so, ho capito Giovanni, perché quando i gay, e sono tantissimi secondo me la maggioranza silenziosa dei gay, la pensa esattamente come me. No, no, questo la maggioranza, la maggioranza dei gay la pensa come Giovanardi, non è così. Dai, scusi, chi li misura? Ma perché no, Dolce Gabbana non sono due gay. No, ma ho capito, secondo non lei sono due gay di successo. Allora, secondo non lei la, loro vita, la maggior parte degli italiani e la maggior parte dei gay sono con Giovanardi, questo è il punto. Sono ma con le sue scusi, ma chi vabbè, ha detto dai, che i Gesù gay è morto stanno freddo con Grillini, invece Grillini è quello di Bologna, simpatico, sì. Grillini, invece con Dolce Gabbana, ma chi l'ha detto? No, con Giovanardi è diversa la cosa, magari stanno anche con Giovanardi. Ho detto che loro con Giovanardi, come Zeffirelli in tantissime vabbè, ma quelli sono opinioni singole come Zeffirelli in tantissime ha rivendicato il suo orientamento, sì, ma ha sempre detto sì che lui non avrebbe mai rinunciato ad avere una madre. Vabbè, io voglio capire, cioè, se per lei voglio capire se scusi Giovanardi voglio capire che insieme al padre sono quelli che tutti noi storicamente sì abbiamo avuto e conosciuto. Vabbè, ma questo ho capito. Carlo, voglio capire una cosa. Per te l'unione tra un uomo e un uomo o tra, o tra una donna e una donna può essere equiparata a quello che ne so tra un uomo e un animale? È la stessa ma cosa? È, nome con un uomo, è come fra un uomo, una donna, come in Italia adesso ci sono musulmani che vivono con tre donne. È la stessa cosa. Loro, nel cioè, senso secondo che lei vivere con tre donne, vivere con un uomo e un uomo e un uomo con tre donne è uguale? No, ci sono tanti paesi del mondo in cui è assolutamente legale, legittimo e riconosciuto. Se voi parlate con la Chienge, come sapete il nostro amico Calderoli ha avuto una macumba col padre della Chienge che ha 44 figli. Macumba, e ce l'ha, e c'ha 44 vabbè, figli la da vari mogli. La cosa ma questo fatto non vuol dire che noi dobbiamo riconoscere in Italia il matrimonio poligamico. Cioè, ma, fatto capito, ma la poligamia non è uguale al rapporto tra uomo uomo e donna donna. E cioè chi l'ha detto? Ma scusi, dai, in tanti paesi è ma okay, non si può fare sto paragone, dai, su, non è la poligamia, contesto, la poligamia è uguale al la poligamia è uguale loro, al matrimonio. Per loro quello è il matrimonio. Ma ho capito, nella loro cultura e nella loro civiltà. Il matrimonio è poligamico. Allora io voglio capire, no, dai, basta comicità. Voglio capire un ultimo. Gli uomini vogliono vivere assieme. Voglio una volta che gli ho riconosciuto che non avranno nessunissimo tipo di discriminazione. E una volta che abbiamo riconosciuto, ma non è la stessa cosa, dai, il rapporto le donne che i figli in Italia, per mia iniziativa, 4 anni fa quando ero al governo, in qualunque situazione nascono, sì, fuori, dentro il matrimonio, hanno pari diritti. Sì, sì, quindi i bambini però non possono essere discriminati, Carlo, in nessuna maniera. D'accordo, Carlo, rispetto però adesso non c'è bisogno di fare, ma non c'è bisogno di fare adesso tutta la ricapitolare tutto. Voglio chiederti una cosa. Allora, no, una cosa che non c'entra niente. Mi sta benissimo che due uomini vogliono andarsi a comprare un bambino. Va non bene, mi sta questo bene. Va bene, d'accordo. E allora che vogliamo fare con lo giudice? Lo vogliamo bruciare sulla pubblica piazza quel se il tuo ma collega senatore sulla pubblica piazza e allora ha avuto però un figlio ha diritto di sapere che è sua madre vabbè, quello saranno leggi e americane viceversa, un bambino che viene fa, nasce ha diritto di sapere che suo padre forse senti, a leggere, ma è vero che prenderai è vero che prenderai leggere, è vero che prenderai 10.000 euro di vitalizio o no andate a leggere la giurisprudenza adesso in corso in vabbè ma adesso non ce ne frega niente la giurisprudenza in Inghilterra dai su Carlo ma è un casino che sta venendo fuori in queste situazioni in cui i genitori sono ma è vero che prenderai 10.000 euro di vitalizio alla fine ma adesso non sto pigliando per assolutamente niente. È vero che sono ho 41 anni diversamente. Sì, ma te li sei decisi da solo in Parlamento diversamente. È vero, no, guarda, io sono uno di quelli che dice, ragazzi, sapete cosa c'è? Ho 41 anni diversamente. Ho capito. Quindi mi date dietro i 41, rivalutati, sono la persona più felice. Ma capito, ma ve li siete decisi voi? Le avete decisi che niente, quello non era. Ma voi ve li siete fatti da soli i versamenti, i soldi nostri. Al di là delle tasse, queste sono una parte che è stata accantonata. Ma accantonata sempre quindi decisa da voi. Benissimo, basta che me le dirò indietro. No, ma non te li mica, poi, se ma sono sempre soldi nostri, sono guarda, sempre soldi nostri. Come quelli di Profumo che va via con 16 milioni di euro. Ma che c'entra Profumo oppure che 16 milioni? Date quello che prenderà Felpi o il direttore del giornale come pensione, faccio cambio subito. Ma è una campagna i vergognosa. Anni, è una campagna i 41 anni li cambio immediatamente con gran parte di quelli che fanno questa campagna. Ma che meglio che tipo sapere di campagna è da Sciacalli? Meglio Giovanardi no, fuori dal Parlamento. E giustamente prima avete parlato di un caso scandaloso di una persona che è stata lì un giorno, per due giorni, tre giorni, non so quanto, e piglia 3.000 euro, sì. Esatto, cosa che non esiste più perché giustamente è stata cambiata. Ma tardi, troppo tardi, troppo tardi. Perché è stato lì un giorno e chi ha versato per 41 anni. Ho capito, Carlo, però tu io prenderai una pensione nettamente superiore a qualsiasi di anni. No, nettamente inferiore di quanto avrei preso se fossi stato già avvocato in banca quando andai via. No, perché tutti i miei colleghi non che è in banca vero, non è così. Come Profumo prende... che piglia 16 milioni di euro. Ma che c'entra Profumo? Il direttore di banca è andato in pensione con pensione di liquidazione molto superiore alle mie. No, molto no. Superiore. In proporzione è sempre non ti senti un privilegiato per la pensione, no, che prenderai? Perché sì. Se pigliano molto più loro di me, mi sento un privilegiato. Ti senti un privilegiato o no per la pensione che prenderai? Ti faccio una proposta che mi sembra saggia. Tutti gli italiani, tutti, commercianti, artigiani, coldiretti, statali, dipendenti dell'ENEL, ieri si fa il calcolo sul, non il retributivo, sul contributivo. Sì, però lascia perdere. Tutti, compreso a me, e a tutti, immediatamente... No, ma cominciamo dai politici. Cominciamo dai politici. Cominciamo dai politici, no, allora. Quando dico tutti, no, ma tutti, no, i politici prima. Quando uno dice per tutti non si fa mai niente. Quando uno dice ti guadagno. Ma che guadagni, dai, su. Ma stai scherzando? È dall'80 che faccio il consigliere regionale, sono 41 anni di versamenti. Ho capito, ma i versamenti li avete decisi voi. Solo che me li diano indietro i miei soldi, solo che mi diano indietro i miei. Ma non sono tuoi, sono nostri. No, cioè, vabbè, questa è roba ridicola. Ma li avete decisi voi. Sono vostri i soldi degli statali, sono vostri, certo. I soldi sono dei, i soldi dei contribuenti, sono, certo. Sono vostri, sono soldi pubblici, sono vostri tutti quelli che pigliano uno stipendio sono soldi. Scusami, vostri, no, però guarda, fammi dire una allora cosa, lo dico, stipendio l'avete indietro, no. I soldi che le testate giornalistiche in cui lavorate hanno preso da 30 anni dallo Stato, cioè i miei soldi. Allora libero deve pagare i giornalisti e per pagare i giornali che sono sempre vissuti di contributi. Dunque pubblici, libero che sta indietro i miei soldi. Libero che sta facendo questa campagna, secondo te deve ridare indietro i soldi pubblici che ha avuto fino al 2009? Sì, indietro i soldi pubblici, assolutamente sì. Assolutamente sì. Cioè Belpietro deve rinunciare a una parte del suo stipendio per la campagna che sta facendo. No, deve rinunciare. Ho detto che io sono pronto a fare cambio della mia situazione pensionistica. Sì, ma è diverso. È diverso. Mi dicono adesso io domattina cambio. Sì, ma Belpietro se l'hai pagato lui i contributi, ma scusami, non sono soldi pubblici quelli di Belpietro. Non sono soldi pubblici. Quando non vedo negli applausi generali i Profumo vari. Ma che c'entra con Profumo? Di euro, ma quelli sono soldi delle banche, ma chi se ne frega? No, non sono soldi, però guarda, sono soldi che hanno fottuto ai risparmiatori. Sì, ma adesso non meglio la pensione a Giovanardi, mio, ma fuori dal Parlamento piuttosto che Giovanardi in Parlamento. Fatto prosperare le banche. Ci sono, no, situazioni, però scusami Carlo, fermo un attimo, tu hanno fatto degli errori, ma lascia perdere le banche, il punto fa fondamentale danni, ma non vuoi capire, Cruciani, che fa meno danni se è fuori dal Parlamento? Ma con che la c'entra adesso, euro. Ma chi questo se ne frega, punto. Adesso meglio, devi attaccare meglio. Giovanardi dicendo che deve stare fuori dal Parlamento, amico, ma bene i 10.000 il signore sa che ce l'abbiamo a vedere in tribunale, quindi mantenga le sue energie per la causa. Siamo pronti, però scusami Giovanardi, la cosa molto semplice è molto semplice questa cosa qua, il tuo stipendio e il tipo di contributi ve li siete decisi da soli e sono quattrini nostri, no, allora, chiaro? Il nostro stipendio è rapportato a altri 8.000 signori che ma ve lo siete deciso da soli, noi, dai. Siamo dei magistrati, chiaro? Ve lo siete deciso da soli. I magistrati invece sono una casta vera che è pericolosa. Allora, che i magistrati possono godere ve lo siete deciso di un da certo soli. Tipo di retribuzione e non devono affrontare ve le elezioni. Ve lo siete deciso da soli. Va in Cassazione, ma la stai buttando in caciara, dai, non c'entra niente, dai. No, sono ve lo siete decisi da soli lo stipendio. Scusi, e anche i contributi. A 24 ma anni, chi se ne frega, voi automaticamente va in Cassazione. Ve lo siete deciso da soli lo stipendio e anche i contributi. Non volevamo deciderselo da solo, come voi sapete, sono stati agganciati. Ma quello che c'è per vostra decisione, però non è che l'hanno deciso allora, gli altri. La decisione, se fosse stata nostra, io voglio pagare. Rinuncia al 50% del vitalizio. Rinuncia al 50% del vitalizio. Prendere come Profumo, voglio 16 milioni di euro. Anzi, voglio, guardate, un ventesimo di quello che ma avete che c'entra preso. La liquidazione di Profumo di un privato, quella. Un ventesimo, ma per la verità, i privati che hanno gestito le banche sono privati fino a un certo punto, perché i loro soldi sono i soldi dei risparmiatori. Ma dai, quei 16 milioni lì li ha presi dalle tasche dei risparmiatori che erano correntisti o avevano rapporti con quella banca. Ma cosa c'è? Ma non è che li aveva presi dal cielo. Ciao, perché Carlo, ti devo lasciare. Ti devo lasciare. Ciao, chiaro? ciao. Viva i Fraci! Viva i Fraci! La Zanzara. Allora, prima del traffico, e qui è un massacro continuo. Prima del traffico, 800240024, volevo sentire Antonio da Palermo. Vai Antonio, poi forza. Poi Domenico da Milano, che è un tassista, mio amico. Marco da Piacenza, Mirella da Roma, Luigi da Pisa. Prima però Antonio, vai Antonio, Palermo. Allora, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi, vai. Bravissimi tutti quanti, eccetera. Però siete due conduttori da Festival dell'Ovvietà. Festival dell'Ovvietà. Bene, noi siamo contenti di essere conduttori da Festival dell'Ovvietà. Dell'Ovvietà, cazzo. Schieratevi veramente. Ma su che cosa, dimmi? Su tutto. Giovanardi quanto guadagnava al mese quando faceva il politico? E poi se la prendevo dietro Fai il politico, banca. Fai il politico, no? Fai il politico. Questo. Ah, poi noi saremo la banalità, ma se noi siamo la banalità tu non sai un cazzo, no, però. Io non so capo, voi siete i maestri. Voi siete, e vi stimo, e siete i maestri, però schierate, prendete una posizione. Ma schierate, ma più schierati di questo. Ma io ogni giorno sono. Si massacrano per quello che diciamo. Io ho detto che i vitalizi devono essere aboliti. Sono a favore del matrimonio gay, dell'adozione, dell'utero in affitto, di tutta questa roba qui. Ma che vuoi da me? Ma i vitalizi devono essere aboliti da chi? Ma il vitalizio non è colpa. Cioè, le persone il vitalizio non deve più esistere. Deve essere cancellato. Ma tu pensa a una persona che fa politica per ottenere il vitalizio, per rubare, poi quando ti regalano i soldi li deve tornare indietro. Ma è un controsenso questo. Ma cioè, non ho capito, ma politico... Antonio, però scusami, io capisco l'ironia, no? Il politico, uno fa il politico per rubare, poi no, ma poi il per... Il politico non andrebbe pagato, perché se tu fai politica al servizio del cittadino lo devi fare per vocazione. Ho capito, ma uno come campa? Come campa? Cazzo, allora ti licenzi per fare il politico? Ma stiamo scherzando. No, ma come campi? Se vuoi fare politica, come campi, Antonio? Non spiegami. Un minimo di stipendio ci deve essere, sicuramente. Minimo. Ma no, minimo, uno stipendio, 2.500, 3.000, 4.000 al mese. Stop, perché il problema dell'uomo ladro, del politico ladro, sono i soldi. Quindi capito, però c'è anche la tesi contraria, cioè meno guadagni, esatto, come politico, come stipendio, e più sei, quindi se hai potere, soprattutto a livello regionale, a livello locale, più hai allora la tentazione. Non fai, no? E non lo fai, perché i grillini, io non sono grillino, ma perché i grillini si sono ridotti lo stipendio? No, infatti mettiamo è una cosa ottima che hanno fatto. È una cosa equa, facciamo equa, il non equa. Equa, equa, scusami. Fermo lì che c'è il traffico, fermo. Traffico, veo chi là. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta La Zanzara. Allora... Sì, ma dai, fatti bravi. Allora, Rocco Tanica, Elio le storie tese, Rocco Tanica, ci racconta quello che pensa sugli animalisti. Gli animalisti sono fra le persone più prive di senso dell'umorismo dell'universo conosciuto. Questo dico è una nuova religione. Anche esplorato. È un nuovo integralismo, bisognerebbe dire. Sentite quello che racconta. Una volta spruzzato, posso affermare che un giorno di qualche anno fa, dopo aver dichiarato alla radio, in un programma del quale ero ospite, che avevo colpito un cane che mi stava aggredendo, un cane lupo che mi stava aggredendo con dello spray al peperoncino per difendermi, evitando che mi sfigurasse, ho ricevuto minacce di morte. No, ma è vero, c'è gente che arriva a minacciarti di morte semplicemente perché ti sei difeso da un animale. Ti sei difeso, come quel tizio che ha sparato al cinghiale. Quello si è difeso, è stato ammazzato tra l'altro. E c'è gente che se la piglia con quello piuttosto che col cinghiale. Vabbè, anzi, Rizzi, non te la devi prendere. Come si chiama? Ma no, Rizzi, ma è pieno. Ma guarda che Rizzi ha un sacco di consenso da questo punto di vista tra gli animalisti, per fortuna, non tra gli italiani. Tra i pazzi animalisti ha un sacco di consenso. Poi ci sono degli animalisti che addirittura si mettono a chiamare i macellai. Tu lo sai che ci sono degli animalisti? Sì, si mettono a chiamare i macellai. Vabbè, ma sono alla follia. Dicendo che sono degli assassini. Io sono dell'associazione Fratelli Animali. Prego. Lei si rende conto che è complice di un olocausto animale? Sì, e mangia la carne come gamba. Mangiando vegetali, non faccio del male agli altri esseri viventi. Ah, ma quello non si fa, non sentono del male, non ti preoccupare. Non mi dirà che squartare un agnello, l'agnellino non sente nulla. No, guarda, non mi intendo niente, non mi preoccupa. No, no, io mi preoccupo. Ma chi è a lei? Mi state tappicciando. Ma c'era lei un posto da darci. Ma vai, capito, un bello posto fare con noi. Perché no, non cambiate? Aprite una tranquilla rivendita di cereali, di legumi, di soia, di vegetali. Ma voi state tappicciate che cervello, bello rufratusto. Ma vai, non si fa niente di male al pro. Ma quando proviamo a mangiare, viva la carne. Ma perché mi dite queste cose? Siete sadici. Non dovete uccidere gli animali, siete complici dell'uccisione di esseri viventi, provano sensazioni. Pigliate una bella corda. Una corda, quella doppia, quella che non si spezza, e lanciatevi nel vuoto, perché quella è la meglio cosa che la potete fare. Anzi, sei rovinato, tu stai, mangiate una pelle di carne, fai qualcosa, ma tu sei rovinato. Ecco, scommetto che la persona vicino a lei è a favore degli animali, me lo passi. Ma a favore, accidete. No, io no, io sono per la vita, per la vita, per la vita, non come voi. Accidete con gas. La domanda è il telefono occupato, non ci serve dove. I signori macellai napoletani non l'hanno presa benissimo. No, giustamente c'è questo tizio del partito animalista, fratelli, la voce è fastidiosissima, i fratelli animali, no? No, ma anche la voce è fastidiosa. È bella questa associazione, però i fratelli animali, i fratelli animali che chiamano, amico mio, i cosi, i fratelli animali si mettono a chiamare i macellai di Napoli che non hanno tempo da perdere, dovranno vendere la carne, impiccati. Domenico Milano, vai. Amico mio, Domenico, eccoci. Eccomi qua. Ciao Beppe, ciao. Ciao, parente. Ciao, grande, tassista di Milano, vogliamo ricordare la macchina? La macchina è Sierra 41 del 969. Vai, vai, che devi dirmi su Chicco Testa, su Uber? Guarda, ma ha fatto sudare il signor Chicco Testa. Perché? Perché? Attiami. Il problema è che quando si comincia a parlare di illegalità o legalità, il discorso va sulle carte di credito dei tassisti. Ma che cazzo c'entrano le carte di credito? Ma infatti quella cosa io non c'entro un cazzo. Ma è tutto un più, cosa c'entra la macchina pulita? Il problema è la legalità. Solo che uno che è intervenuto prima ha detto giustamente che anche i nostri soldini, pochi, vanno al vitalizio, al vitalizio di quelli che sono intervenuti poi a tutta la. Domenico, ci puoi dire quanto guadagni tu? Ma io penso di essere sul netto, sui 12.000... sui 12 mesi dell'anno, fai conto che io devo lavorare sempre, perché sennò non guadagno, però tu sai benissimo che io sono sui 2000. 2008, 2000 netti al mese, dici? 1007 anche. Il problema è che io se mi fermo, io sono perduto. Sì, vabbè, quello certo, quello tutti però, quello tutti. Però io se mi fermo e vado in vacanza, nessuno mi paga il mio TFR, arriva tutto dalla licenza. E ai tempi ho pagato, tanti anni fa, ho pagato perché non c'erano banche. Quanto hai pagato? Quanto hai pagato? Ai tempi i miei erano ancora in lire, 80 milioni. 80 milioni. Senti, voglio chiederti una cosa, ma sei contento oggi di vale? Sei contento? Oggi a Milano vale 150.000, però sulla transazione sai benissimo che devo pagare un tot al socio nascosto, il signor Stato. Beh, lo Stato. E quelli lì se li prendo. Dunque, come noi, tassista, però Domenico, scusa, voglio dirti una cosa. Come tutti quelli che lavorano legalmente, come lavori tu legalmente, come paghi le tasse tu, le pago io. Io non faccio come te che vive, come Danilo, Uber Pop, che vivacchia, che si arrangia. Io vivo e lavoro del mio e vado. Però Domenico, come rispondi a quel tizio che tra 15 giorni Danilo di Uber Pop dovrà rinunciare a 2100 euro? Ma io spero che lo fermino prima. Peccato che non abbia dato la targa. Ah, tu dici devono essere bloccati tutti. Ma qui non si deve vivacchiare, bisogna vivere, bisogna andare in giro con la faccia alta. Cioè, tu dici bisogna andare in giro con la legge in mano. Cioè esatto, io posso. Ma secondo te va bloccato anche Uber Black domani mattina? Uber Black io posso concepirlo, regolamentato lo posso concepire. Il territorio, una licenza, un'autorizzazione e io lavoro nel mio paese. Ma porca puttana, ma perché uno di la Chiarella deve venire qua a rompermi i coglioni? Me lo dici? Se ha avuto l'autorizzazione alla Chiarella, che se ne stia alla Chiarella o a Crotone a lavorare? Ma che cazzo deve venire qua a lavorare a fare? Cioè tu dici uno che ha ottenuto la licenza alla Chiarella, che è un paese evidentemente vicino, che cazzo di paese serve, è? Serve i signori utenti di la Chiarella. Di la Chiarella. Ci pensano. E invece tu dici uno che ha la NCC di la Chiarella viene qui e fa sostanzialmente il mestiere che fai ma tu. Ma non solo di la Chiarella, arrivano da tutto, da Cortina d'Ampezzo, da Aosta, da Trepalle. E sei incazzato con la signora, come si chiama quella di Uber, con la signora Lucia? La signora T? La signora Tucini? No, Nucini, no. Non storpiare il nome. Lucini? Nucini, dai, Nucini. Scusa, non mi viene, non riesco Lucini. A pronunciarlo. Ma scusami, lei fa il suo, cioè lei tutela gli interessi della sua azienda, però, perché io... Lei non fa un cazzo e prende il 20% di una corsa. Ma no, cosa scusami, fa lei? Io capisco la rabbia. Ma appunto, e cosa fa Marchionne allora? Cosa fa Marchionne? Cosa fanno gli Elkan? Scusami, ma questi sono manager e fanno gli interessi della loro azienda. Domenico, fermo che c'è la borsa, aspettate, qui siamo massacrati, fermo. Ma maledetto il giorno, io dico che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta La Zanzara. I'm a man. Saluto Domenico, vuoi aggiungere ancora qualcosa, Domenico? Non c'è più? Non c'è più, tassista milanese, molto incazzato con Uber. 800 24 00 24. Ancora Claudio da Milano, veloce Claudio. Ciao Cruciani. Ciao, dimmi. Allora, io volevo sapere... Sei tassista anche tu? Sì, sono tassista anch'io. Sì. Io volevo chiederti una cosa. Secondo te, se io adesso quando finisco il mio turno prendo un po' di lattine di coca e vado davanti al bar le tre gazzelle a venderle a un euro l'una perché tanto non ci pago le tasse, cosa fa il barista? No, si incazza come una belva. Si incazza come una bestia. Chiama la polizia mi sequestra tutto, giustamente. Sì, sì. Sì. No? Tu dici la stessa cosa? Che differenza fa? Perché Uber può farlo con noi e io non posso farlo con un bar o con ognuno. Stiamo parlando sempre di Uber Pop, perché Uber Pop significa Uber che Black, io Uber Black lavora con gli NCC. Gli NCC sono titolari di una licenza regolarmente emessa da un comune, quindi vabbè. Come diceva il mio collega prima, però ci sono c'è il mobile, qui vedi macchine di Catanzaro, vedi macchine che vengono qui da tutta Italia a lavorare per il mobile. Cioè non dovrebbero fare il lavoro che fate voi, invece lo fanno, Vabbè. Adesso ascoltami, a me dispiace per uno che perde il lavoro, per uno che è in mobilità o che è in cassa integrazione, però se tutti a un certo punto quando si trovano in difficoltà si inventano di fare gli abusivi, qui non si fa un cazzo più nessuno. Cioè diventa un mondo di abusivi. Tu vai a invadere il campo di un altro e lo saturi e ma io è per questo che ti dico, Claudio, che il problema non è Uber. Uber fa il suo mestiere, che è inserirsi all'interno di una normativa, cerca di fottere le leggi in alcuni casi, cerca di aggirarle, cerca resta in quel crinale che è quello tra consentire. Diciamo anche un'altra cosa, cioè il internet, come diceva. Ma sei sul taxi o no? Sei sul taxi sono o no? Sul taxi, adesso si stava ascoltando la Zanzara, infatti poi te lo passo il mio amico. Sì, però parla bene, se no non si sente una mazza, dai su. Internet ha ragione te, internet ha cambiato. Ma perché non si sente perché dal tuo telefono? Perché non si sente? Perché? No, perché non? Si sento poco, ti sento male, alza il volume, cazzo, su. Quale volume? Il volume della tua minchia di telefonino. Aspetta che devo chiamare una persona. Aspetta un attimo, fermo. Allora, io voglio cercare questo tizio che pare che abbia aggredito Sgarbi, Bruno Aimone, così ci togliamo un po' di avvelenamento sulla vicenda Uber e tassisti. Questo Bruno Aimone, critico d'arte, giornalista, eccetera, che pare, sembra dal racconto sgarbiano, che abbia aggredito e ferito, graffiato, ferito all'orecchio lo stesso Sgarbi. Vediamo un po' se lo pizzichiamo, Pronto? Aimone? Sì, chi parla? Buonasera, mi chiamo Cruciani, salve. Ah, Radio 24, scusami, non... Figurati, volevo capire, Aimone, che cosa è successo? Perché Sgarbi dice che è stato aggredito, è stato ferito all'orecchio, che è successo? Veramente è successo che io sono ancora costernato. Durante la manifestazione alla Cappella San Severo, quando è toccato il mio turno per l'intervista, le ho posto la domanda di rito, quella di Prassi. Probabilmente lui non l'avrà gradita e ha reagito. Ma che domanda era? Professore, è un privilegio per Napoli averla qui a Cappella San Severo, dove stasera ne sarà cantore, succedendo, ma solo in ordine di tempo, a Filippo D'Averio. Ecco, credo. Che taglio darà alla sua lezione magistrale? Io credo che sentendo Filippo D'Aveiro è scattato. Aveva la penna in mano perché stava ultimando uno scritto e quindi ha allungato il braccio, era a pochi centimetri da lui. E... ha allungato il braccio? Cioè, alla parola D'Aveiro. Che è successo? Prego? Alla parola, parola D'Aveiro, lui ha fatto uno scatto terribile, si è girato verso di me e mi ha dato un cefone al viso. Io mi sono alzato perché eravamo seduti accanto, vicino, distante di 15 centimetri, e mi sono messo in disparte almeno 2 metri e mezzo. E lui ha cominciato a inveire. Diceva: questi giornalisti di merda, io non vengo secondo a nessuno. Io ero costernato, mi sono messo da parte 2 metri e mezzo, ma lui qualcosa deve sostenere, giustamente. No, ma tu hai messo le mani addosso a Sgarbi? Assolutamente. Ma no, dice che è stato ferito all'orecchio. Anche io potrei dire così. Preferisco, io sono stato ferito moralmente. È impossibile. Vabbè. Oggi. Ma cosa le ha detto? Capra. No, capra, credo di non averlo sentito, perché ci sono state una successione di ingiurie. Credo di non averlo sentito. Ingiuria, che ha detto? Giornalista di merda, poi? Giornalista di merda, io non vengo secondo a nessuno, qua si deve finire, io sono solo io e basta. E Sgarbi addirittura pare che ti abbia denunciato perché dice che gli hai messo le mani addosso, graffi, sangue, gli hai tirati i capelli, qualcosa deve essere successo però. Guarda, perché tirati i capelli. Esattamente, un fatto di donne, e diciamo che lui è probabile che la intende in questo modo, ma sai, insomma, tirare i capelli ad un uomo mi sembra un poco eccessivo, quindi se la poteva trovare meglio, ecco, la battuta. Cioè tu non hai toccato con un dito Sgarbi? No, assolutamente, io sono stato toccato da Sgarbi. Tu hai intenzione di denunciarlo per questo ceffone, per queste ingiurie? Allora guarda, io ti dico onestamente, io ho il mio operatore che mi segue dovunque, per l'occasione insomma mi seguiva, che ha fatto una serie di filmati che io adesso sottoporrò all'attenzione del mio staff. No? Cioè, ma okay, o denuncia o no denunci, se t'ha picchiato uno decide se denunciarlo oppure fottersene, due sono le strade, adesso al di là dei filmati non è che si sai qui. No, perché tu comunque devi avere a tuo supporto, devi avere determinate cose. Guarda che si ha mandato anche il suo molosso alle mie spalle. Molosso, no? Addirittura il molosso. Sì, è inceso il bodyguard, il suo molosso, in certo si dice così. No, ma lo so, è stupendo. Ma è tanto vero che alcune persone me l'hanno dovuto levare da dosso. Addirittura, ma cioè t'ha aggredito pure il molosso? Sì, e che t'ha fatto? Scagliato. E che t'ha fatto sto molosso? Molosso. Mi ha preso alle spalle e mi ha spinto contro una targa, una lapide di marmo nella chiesa. Comunque è spettacolare. Direi che sono successe delle cose clamorose. Però scusi, se ti sei fatto male o no? Ma sono versioni contrastanti però. C'è un giallo. Ti sei fatto male o no? Io, ripeto, mi sono fatto male non moltissimo, perché stata la penna che mi ha colpito sotto l'occhio. La penna. E il ceffone? Quindi è vero... La penna. E il ceffone? Quindi è vero che ferisce più della penna della spalla. Ma io dove sto male, ripeto, è il fatto morale. Non si può aggredire un giornalista, ma nessuno, mentre è nelle proprie funzioni. Io ho il diritto dovere di cronaca. Sì, vabbè, d'accordo. In questo momento stavo esercitando la mia professione. Ho capito, ma se lei gli dice che arriva dopo D'Aveiro, a quello lì gli partono 5 minuti. Amico mio, su. Sì, ma succedendo in ordine di tempo, lei comprenderà l'italiano. No, ma certo, ma tu hai ragione, per carità. Quando io le dico in ordine di tempo, succedendo in ordine di tempo. Ma ho capito, ma allora come fai a sconvolto ancora? Sei ancora... Devo anche rimarcare una cosa, che io sono andato da lui con le vele basse. Tant'è vero, l'ho chiamato professore, ho detto che Napoli ha un privilegio nell'accoglierlo. Beh, insomma, e vi ho detto che lui sarà cantore della Cappella di San Severo. Più vele basse di questo, mi dica cosa dovevo fare? Vele basse, Cagli il culo come fanno tutti quanti gli altri. No, io sono un giornalista professionista. Se lui ha delle perbole mentali tali da appena ascolta il nome di una persona, ha delle tare mentali. Che cosa ha detto lei? Che gli strappano i capelli? Che gli tirano i capelli? Non lo so. Sono delle azioni che insomma al limite possono fare le donne, un uomo reagisce diversamente. Scusami, ma tu come lo consideri, un mezzo psicopatico il professore a questo punto, un matto psicopatico? No, io non sono un medico, mi posso attenere al momento, non c'era nessuna ragione probante a scatenare questo. Comunque il giallo Sgarbi, grazie, molto gentile, a presto. Ciao, di nuovo, ciao, arrivederci, ciao. Amico mio. Salute. Ciao. aggredito chi? Il giallo Sgarbi. Lui dice: sono stato ferito all'orecchio da un giornalista che mi ha anche graffiato. Avete sentito Bruno Aimone dire: mi ha lanciato un molosso, oltre che la penna addosso. Eppure il ceffone. Chi ha ragione? Bah. Oh, eravamo però con Claudio da Milano, il tassista, sì, incazzatissimo, con no, Uber. No, ma non è questione di essere incazzati. Beh, ma tu che fare se ti trovassi di fronte alla signora Lucini, di Uber, che cosa faresti? Ma cosa vuoi? Se te la trovi di fronte, cosa fai? Qual è la tua reazione? Ma guarda, non ne ho idea. Non... cioè, te la trovi di fronte, arriva col taxi e la vedi che attraversa la strada. Che fai? Ti che fai? Ce le passo sopra? No, dai, non diciamo cazzate, accanto. Tu. No, non mica stavo dicendo questo, per carità. Cioè, te la trovi, la vedi sul marciapiede, arrivi ma là. Guarda, che fai? Di noi ne dicono giornalisti. I giornalisti hanno parlato male di noi. C'è stato quello che si è lamentato che alle 3 di mattina dell'ultimo dell'anno, con mezzo metro di neve, non ha trovato un taxi. Mm. Cioè, su di noi ne sparano. Cioè, se dovessimo accanirci contro tutti quelli che parlano di noi, è che la cosa che mi fa incazzare è che sembra che questa vertenza contro Uber l'abbiamo fatta solo noi, ma nessuno dice che anche in Germania, in Spagna, in Belgio. Ma per te va cancellato pure l'altro servizio Uber Black là, che è il servizio principale, quello con gli NCC, allora, eccetera. Uber Black se lavora con gli NCC, come ripeto, che sono, sì, però di voi lo contestate, voi contestate anche il fatto che quello fa sostanzialmente un servizio di taxi senza avere, però ascolta, no? Lo fanno già. Appunto, dico. Prendono le corse in manetta davanti agli alberghi e noi lo sappiamo, cosa facciamo? No, dobbiamo ammazzarli? No. E cosa fai? Subisci, perché se tanto se la polizia non interviene, cosa fai? Io mi devo mettere nei guai per una corsa. No, ma non sto te. Dicendo tu, sto dicendo fosse ma per no, te. Ma chiunque, io cioè i gesti di violenza io non li condivido. Oh, figuriamoci. Poi posso comprendere che esasperati qualcuno ogni tanto perde la testa, gli parte il neurone e magari agisce in maniera sbagliata, però vabbè. La situazione non è piacevole, no? Vabbè, grazie. Passami quel tassista che c'è a portata di mano, Parenzo, tanto non si sente in cazzo al tuo telefonino, vediamo un po' se si capisce invece. Come sta guidando, devo mettere il viva voce perché altrimenti... Vabbè, niente, Roberto da Milano, aspetta, dobbiamo chiudere, dai. No, ma è inutile, dai, Roberto da Milano, dai, Roberto. Sì, buonasera. Dimmi, veloce, vai. No, volevo dire che la vostra è una trasmissione di grandi cazzate. Sì, primo, non c'è dubbio. Oggi l'ho seguita. Sì. No, non c'è dubbio, meno male la missione già... No, non c'è la missione, le cazzate sono il sale della vita, vai Roberto, vai, dimmi. Sì, sono il sale della vita, però mi puoi spiegare come stiamo a romperci i coglioni con privilegi dei politici. Privilegi, sì, dei politici sono un dato di fatto. Sì, adesso arriva il professore a spiegarci come ci dobbiamo comportare, sì, la cosa di cui dobbiamo parlare, gli argomenti, ma e tutto. Arriva il professore da Milano, Roberto, a insegnarci come si campa, come si sta al mondo, vai. Ti insegno, sì. Sì, insegnami, insegnami, vai, vai, dimmi, dimmi. Ti insegno, se stai zitto, però non si può insegnare uno che continua a ma tu sei più bravo di me, vai Roberto, vai. Sì, ci sono dei diritti che sono acquisiti, giusto? Acquisiti un cazzo, acquisiti un cazzo, chiaro? Acquisiti un cazzo, perché te lo dico subito, perché spesso vengono modificati in corso per i cittadini normali le pensioni, il reddito non è mai lo stesso perché cambia, il reddito dei cittadini a seconda delle situazioni diverse che si vengono a creare nella vita, e la stessa cosa deve valere anche per i politici. Dunque domani mattina si dovrebbe cambiare il vitalizio e lo si dovrebbe modificare, cambiare, ma fino ad oggi mi sembra una... Allora, che cos'è sta storia dei diritti acquisiti? È una follia totale. Salvatore della provincia di Napoli. Ciao Roberto, Salvatore, provincia di Napoli. Salve, buonasera. Dimmi. Dicevo alla vostra collaboratrice, sì, e credo che la vostra sia una campagna indegna per quanto riguarda la questione dei vitalizi sui politici. Magari potessi fare ogni giorno la campagna sui vitalizi, ogni giorno la dovrei fare, da qui fino all'eternità la farò. Fino all'eternità. Posso essere d'accordo con te, le campagne fanno sempre bene. Ciao, però, ciao, ti devo lasciare. Domani 18:30, viviamo e lottiamo insieme a voi, caro Parenzo, caro tassista, a domani. Bravissimi tutti quanti, eccetera, eccetera. Però siete due conduttori da festival dell'ovvietà. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È una cosa indegna la sua trasmissione. Radio 24. La passione si sente.